Lo stivale del rock. Questa settimana, le ultime parole famose. Ciao a tutti gli ascoltatori, io sono Le Ultime Parole Famose, sono una cantautrice ed è appena uscita la mia nuova canzone che si chiama Cemento. È un brano che racconta con ironia come l'amore possa diventare una caduta libera, esplora quella zona grigia tra il cercare il bene e l'illusione di trovarlo dove non c'è. Ed è come dire per chi nonostante le delusioni continua a crederci ed anche se magari si ricade sugli stessi errori si cerca di trasformare l'esperienza negativa in una maggiore consapevolezza di sé. Personalmente amo l'autoironia, l'ironia in generale ed è anche il motivo del mio nome d'arte e cerco sempre di inserirla nei miei testi. Mentre definire il mio stile musicale per me è sempre un po' complicato perché io parto semplicemente da ciò che mi piace e quindi per me è una continua ricerca sonora, artistica e allo stesso tempo di me stessa. Però al momento, per diciamo sintetizzare il tutto, potrei definire lo stile della mia musica come gli urban R&B. E come cifra artistica ho provato ad unire parlato e cantato, dove l'utilizzo di sonorità elettroniche e acustiche si mischiano e si mettono al servizio di testi dal sapore cantautorale, e questa ricerca è avvenuta in maniera naturale perché volevo riuscire ad unire le sfumature di entrambe le cose, perché con il parlato ho l'impressione di avere un dialogo più diretto con chi mi ascolta, come se fossimo in una conversazione faccia a faccia, mentre il cantato, che si regge comunque sulla melodia, lo vedo come se potesse portare in un'altra dimensione, meno terrena. Quindi mi piace questo contrasto, queste sfumature diverse di uno stesso disegno, anche perché credo che a volte le parole siano più forti della musica, altre volte la musica riesce a dire ciò che le parole non riescono ad esprimere. Per quanto riguarda invece i progetti futuri, io non vedo l'ora di suonare il più possibile dappertutto, perché poi per me la musica è questo, è fare live, vivere di connessioni reali, con persone reali e non attraverso uno schermo, quindi sono emozionatissima e non vedo l'ora di fare i più concerti possibili, ho già iniziato, e poi ovviamente abbiamo tante canzoni in cantina che non vedo l'ora di farvi ascoltare. Quindi ecco, incrociamo le dita, grazie a tutti e buona musica. Mi riempio di impegni per non pensarci, ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi, ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi, ho gli occhi come due campari che tengo tra le mie mani perché non so dire basta. Cemento, le ultime parole famose. Dimmi quanto tempo serve, perché voglio uscirne adesso. Ho provato a non sporgermi troppo tra il cornicione e il vuoto. Mi prenderà al volo solo, solamente il cemento, ma io ancora ti aspetto. Dimmi quanto tempo Confondiamo le farfalle nello stomaco, ma solo il corpo che ci avvisa del pericolo. L'amore è semplice se non lo immagini dove non c'è. Giri il telefono dall'altra parte, nascondi lo schermo come il tuo sguardo, mentre ti faccio domande, ti giuro non scherzo. Dimmi quanto tempo serve, perché voglio uscirne adesso. Ho provato a non sporgermi troppo tra il cornicione e il vuoto. Mi prenderà al volo solo, solamente il cemento, ma io ancora ti aspetto. Dimmi quanto tempo serve, non è un gioco di colpe ma di pesi e misure, il coraggio di cedere per la bellezza di sole parole forse da incoscienti, e le nostre scelte sono solo sintomi in cerca di un posto familiare. Devo ancora imparare. Dimmi quanto tempo serve, perché voglio uscirne adesso. Ho provato a non sporgermi troppo tra il cornicione e il vuoto. Mi prenderà al volo solo, solamente il cemento, ma io ancora ti aspetto. Dimmi quanto tempo serve, dimmi quanto tempo serve, è solo il corpo che ci ha visto del pericolo. Dimmi quanto tempo serve, confondiamo le farfalle nello stomaco. Dimmi quanto tempo serve, è solo il corpo che ci ha visto del pericolo. Dimmi quanto tempo serve. Confondiamo le farfalle nello stomaco. Dimmi quanto tempo ormai. Fuori sede, le ultime parole famose. Vorrei disegnare il mio futuro solo con penne cancellabili e do una lista di cose da fare sempre solo lontano da qua. E sarebbe perfetto se gli abbracci sapessero tornare indietro come fossero un eco per quando siamo troppo lontani. Ormai abbiamo trasmesso lo Stivale del Rock. Questa settimana, le ultime parole famose.